E niente, è così. Cosa ti volevo dire? Boh, non me lo ricordo più. Se prendi Gianni. Aspetta che spengo la tappetta, ce l'ho per quello. Se per fare quelle cose toccano quattro orecchie, eh. Sì, infatti. Perché c'è gente anche in PMR, capito? Che stava facendo ascolto. Sì. Allora, Claudio, cosa stavo dicendo tu? No, perché è carogna. Riprendi, Claudio. Cosa ho mai chiesto? Come va? No, io non ti ho chiesto niente, cosa ti ho chiesto? Non facciamo avessi chiesto qualcosa. Va bene. Ok. No, abbiamo fatto un po' di pulizia qua, soprattutto qua in sala radio, perché avevo lasciato le volgibili abbassate con una terra piena di luce e le finestre aperte, capito? Qui c'era un po' di polvere, ho spostato tutto, ho messo tutto in ordine, tutto pulito, tutto ordinato e nulla. E basta, ho fatto gli spostamenti, ho messo la cassettiera sotto la base che l'avevo tolta, insomma, niente. Tutto ok. Va bene, sì, ho abbassato il volume perché qua sono tutti a fondo scala nel PMR, pari ridotti a 100 watt, capito? E là in campagna invece arrivavano tutti i segnali bassini, dai, qua arrivano tutti a fondo scala. No, qua arrivano tutti a fondo scala lo stesso. Guardi che col portatile, quello là che hai visto, copro col gommino tutta la città, perché ce l'ho davanti, non sai, il VHF c'hanno dei difetti notevoli quando c'hanno qualcosa davanti, però quando sono a campo libero, sono micidiali, ma tengono sempre il fondo scala. Ecco, ti dico cosa vuol dire, siccome a volte lo tengo nella borsa così, relegate, ogni tanto metto qualcosa e non lo ricordo dove. Ho trovato Luigi Vittore, quelli da famosi della Degen, non so se ce li ha presenti. L'ho provato, ma lo sai che riceve benissimo, nonostante ci abbiamo l'antenna lì per il pubblico. Che cosa riceve? Abbuffandici. Non voglio che riceve. No, io l'altro giorno l'ho provato appresso. Ero dentro Sassari, stavo parlando con Manuele, con l'MR, quello che ho detto tu, che c'è anche il PMR, con quello lì, esce un bel bene, l'avevo caricato e me lo sono portato appresso, e qua su tutti i fondo scala, poi vabbè io ho l'antenna grande, ho la 510 con l'820H, quindi per forza dei minuti vuoti. Va bene, Gianni, riprendi tu e fai girare. Poi io un altro passaggio, vi lascio perché mi metto a fare qualche cosettina in cucina e poi me ne esco un po' col cane. Riprendi già. Gianni, non riprende. Babbo già farà, io ti saluto e se mai ci aggiorniamo più tardi. Ok? Faccio qualche cosetta qua. Se c'hai materiale, materiale che devi, già lo sai come, avvisami. Quello lo sto tutto studiando, lo sto vedendo un pochino, cazzo, avevi ragione, un bel complicato, minchia. Poi mi si è impallinato il computer, adesso devo andare a Luca per mettermelo a posto, quindi non posso andare avanti con le ricerche. Scusami, ma ero al telefono, non potevo rispondere. Ho detto a Gianfranco, io vi lascio che devo fare qualcosa ai fornelli e poi niente, poi già è tutto acceso qua comunque, non c'è problema. Riprendi, Gianfranco. Sì, grazie. Purtroppo adesso mi è rimasta questa roba che non posso vendere per il semplice motivo che la gente non sa cosa è, a cosa serve, capito? Non puoi vendere la marca che ho in dotazione, e chi la vuole? E anche se la vuole poi non ne capisce l'uso, non ne capisce niente, sono talmente sofisticati che ci vorrebbe uno preparato. Anche la Degen che ho provato ieri, l'ho provata, diciamo, andava bene, ma che quella non è una radio da vendere, perché innanzitutto funziona bene, poi quanto la devi dare? Sarebbe a regalarla quasi, quindi non ne vale la pena, è troppo bella. Poi ne trovi anche poche adesso di radio che di quel genere, che ricevono la banda laterali e così via, ci hanno prezzi allucinanti, quindi la teniamo per il mare e va bene così. Alla grande, ma te l'ha fatta uno del bar, che è tutto acceso, ho detto che cos'è, non lo è un baracchino, è una cash, veramente non è un baracchino, è un 030 digitale, DMR, insomma, e cosa vuol dire, lascia perdere, comunque, ti piace, è bella, però non la conosco, va bene, è per dirti, no? Ce l'ho in 80 metri, figurati, sto ascoltando in 80 metri, posso anche entrare perché c'è l'antenna attaccata, però non c'è una ricezione favolosa, però gli ho messo l'altoparlante esterno, quello del K, l'SP430, e riceve molto molto bene. Ok, avanti già, danni al telefono, capito Giaffra? L'unica cosa mi gira le palle è che non riesco a abbinare un microfono serio, li ho provati tutti, escono tutti bassi, l'unico microfono è il suo, ma va, dimmi tu. Sì, l'ho notato anch'io, ieri invece ho provato un po' a entrare nelle varie bande a bassa potenza, come faccio sempre io, a fare un po' di richiamate in digitale. Sono andato in 80, in 40, ho fatto tutto lo stesso, no? Solito. Ma porca la miseria, sempre al primo colpo, premevo e mi rispondevano. Però non è possibile, sono russi e sono tedeschi, a me non mi piace quella domanda, preferisco un po' di sud, che ne so, l'Africa, la Grecia, le parti un po' verso il basso, e invece no, ma da sempre, anche dove abitavo prima, premevo e c'erano qui. Sono un incubo veramente, poi stanno a chiamarti, se non rispondi a chiamarti, mamma mia, è una cosa proprio micidiale. No, io lievito, mamma mia, che rottura, no, io guarda, l'ho provato l'altro giorno in 40 metri, 6115, e stavo parlando con Mimmo, e appunto mi ha detto, caspita, tienitelo ben stretto con la radio, perché il Barrett in HF è una signora radio. Poi è entrato Tonino, DMN si chiama, non mi ricordo, no, DMN, come si chiama? Tonino, non ricordo il nome nativo, che c'ha quella voce un po' rauca. E mi ha detto, quella è una bella radio, sono radio americane che funzionano molto bene, molto molto molto serie, e aiuto tra me, certo, non destra non me ne date, a me no. Ma per dirti, gente che conosce la macchina, il prodotto, l'apprezza, ma gente che ti dice che cos'è, gomma a masticare, non la vedi che è una radio. Sì, è sempre un signor apparato quello, quelli sono fatti per durare, sono fatti soprattutto per funzionare, quindi sono così. Poi già hai visto i clienti che hanno di radioamatoriale, lì non c'è quasi nessuno, sono tutti a parte. Adesso è uscita la serie nuova, ma sono presi un po' così, chi ce li ha a investire dai 15 ai 25.000 euro, c'è la macchina nuova? Okay, no. Ho controllato il prezzo, allora c'è il kit, non so di che cosa, che costa 182 euro del 950 SSB, quello che ho io, E poi la radio, c'era il prezzo di partenza, 1870 costava. Sì, però è tutta roba, diciamo così, usata. Qua invece io sto guardando il nuovo che c'è, che è uscito, che solo a guardarlo fa paura, ed è il come si chiama? L'ho visto poco fa, adesso non, però è uno spettacolo, è tutto a LED proprio, cioè tutto a display, ed è notevole, fai tutto con quello, è per un uso un po' commerciale militare, diciamo così, però è una cosa formidabile. Sono belli, solo che per noi sono un po' distanti, perché qualunque cosa compri lì deve ragionare in termini di centinaia e centinaia di euro, quindi. Certo, va bene, no, io sono contentissimo, l'ho messo da una parte, a un angolo, e gli ho allungato il cavo HF, e commuto sia quelli là che anche quello, capito? Va bene, dai, Gianfra, mi allontano un attimo che vedo di organizzare la cucina, poi riprendo, se siete qua ci sentiamo dopo, va bene? Ok, se riprende Gianni, se no rimane l'ascolto. Sì, allora, ciao Claudio. Purtroppo, vabbè, purtroppo, mi stanno chiamando al telefono e quindi devo fare 50 cose una volta, non riesco a fare. Niente, vabbè. Kappa, dai Claudio, buon corretti quando lo fai. E niente, poi già siamo qua. Chi vuole entrare può entrare, la porta è aperta. Il canale 10 è riaperto. Comunque Claudio, quello che mi piace è il 40-90, 40-90, dalla Barrett, è notevole, non, ovviamente i prezzi non si sanno perché non è roba per noi, quindi neanche te ne dico, vabbè, pazienza, sarai un'altra vita. E quanto costa? 10.000 euro? Qualcosa di più anche. Guarda, tu pensa che una parata per le navi, no? Quello che sono le navi, che non sono più grandi di un TS2000 tra l'altro, la versione è da 500 watt, della, adesso la marca non mi viene, non so se era... GRC o l'altra che c'è che fa solo apparati nautici, veniva esattamente, ma non ho detto, 15.000 euro, ed era un apparato praticamente civile commerciale, niente di particolare. Figurati questi che sono a uso specifico, proprio ad altissimo livello. Di nuovo al telefono? Avanti.